Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Lo dico subito agli ascoltatori, dotatevi di ampio Malox, così facciamo pubblicità, perché alla luce anche dell'inchiesta della nuova bomba giudiziaria che ha scosso l'Assemblea regionale siciliana, oggi abbiamo un insieme di dati sulle varie inchieste e su quanto e sulle giustificazioni di queste spese dei consigli regionali. Io dico, prima o poi bisognerà mettere mano anche ai soldi che vengono dati ai consigli regionali, continuiamo a dirlo, ma noi non molliamo, e parleremo anche di come si possono ridurre gli sprechi con chi, molto noto alle cronache in quanto era un PM di punta nella Procura di Palermo, nonché candidato, mi riferisco a Antonio Ingroia. Perché? Perché dal 23 settembre il governatore della Sicilia Crocetta lo ha nominato commissario liquidatore di Sicilia e Servizi, e per capire anche che cosa ha scoperto, visto che ha una lunga esperienza come magistrato, al di là di tutte le polemiche sulle inchieste della Procura di Palermo e al di là dell'aspetto politico. Per quello che riguarda le regioni, ripeto, ci sono anche sviluppi che riguardano non solo la Sicilia, la Liguria stessa e altre regioni. Poi la vicenda Monte dei Paschi, l'intervista di Alessandro Profumo, la risposta abbastanza piccata del presidente della Fondazione Cariplo Giuseppe Guzzetti, che ha detto è pesante, è un'affermazione avventata quella di Profumo ed istituita di ogni fondamento, dire che che Consiena rischia tutto il sistema bancario italiano. E poi il presidente della Cariplo, Guzzetti, ha detto anche che la Fondazione Cariplo non ha interesse, non è sul dossier Monte dei Paschi, non ha interesse a rilevare alcune quote della Fondazione Monte dei Paschi. E di questo parleremo, così come parleremo anche di quanto ha scoperto il Sole 24 Ore, che dovrebbe essere vicino l'accordo, il famoso accordo con la Svizzera, e quindi il negoziato tra Italia e Svizzera per lo scambio di informazioni sui capitali all'estero, e una specie di auto dovrebbe prevedere una voluntary disclosure, quindi una sorta di autodenuncia che prevede il pagamento integrale delle tasse, uno sconto sulle sanzioni, la neutralizzazione di quasi tutti i reati tributari tranne la frode fiscale. Gli accordi potrebbero, perché poi queste stime, far tornare in Italia almeno 180 miliardi di euro di depositi degli italiani in Svizzera, su cui poi andrebbero effettuati i prelievi da parte appunto della sanatoria. Verrebbe applicata l'aliquota ordinaria del 21% sul risparmio su quanto trasferito in Svizzera il primo anno che si è aperto il deposito, mentre per gli anni successivi il prelievo riguarderebbe gli incrementi patrimoniali, quindi quello che si è guadagnato negli anni successivi con questo deposito. Buona notizia, ma ne parleremo anche per quello che riguarda la borsa. Perché lo dico? Perché Piazza Affari, avendo toccato, e vi do subito il dato, qui lo diamo in diretta, in questo momento i 20.028 punti, il FTSE MIB, è tornato sui livelli che non vedeva da tantissimo tempo. In questo momento guadagna l'1,5% la borsa. Però vale la pena mettere le campane? Sì, mettiamo le campane, dai, mettiamo le campane. Le abbiamo messe le campane perché? Perché la borsa ha toccato a questi livelli il massimo dal luglio del 2011. Praticamente prima della crisi dello spread, ricorderete quell'estate drammatica che poi portò, che si concluse a novembre con le dimissioni del governo Berlusconi, in cui lo spread iniziò a salire proprio diciamo tra giugno e luglio del 2011, la borsa è tornata ai massimi appunto da allora. In questo momento i titoli che più guadagnano sono Finmeccanica più 7,5%, ma anche Pirelli Fimeccanica ne parleremo, Airbus ha parlato di un futuro consolidamento del settore, possibili acquisizioni, insomma, di nuovo voci sulla quotazione di Ansaldo Energia e anche l'eventuale eccessione. Insomma, Fimeccanica più 7,5, Pirelli più 5,40, Pop Milano più 4,80, Telecom più 4,30, Autogrill più 4, Banco Popolare più 3,80, UO Duty Free più 3,50, Mediobanca più 3, Ansaldo STS più 2,80, Ubibanca più 2,60 come Unicredit, il 2,5 lo guadagna Intesa San Paolo, il 2,40 Exor e il 2,30 CNH Industrial. Chiudiamo con Tenaris che guadagna il 2 come Mediolanum, Fiat guadagna l'1,70%. Chi cede oggi? Soprattutto Mediaset, ma aveva toccato livelli altissimi, sopra i 4 euro, perde oggi il 3,40% a 3,90 euro, Campari meno 1,20, A2A meno 0,90, Unipolsai meno 0,70, Terna mezzo punto percentuale di calo come Iux. Ancora, sì, adesso vedo tantissimi messaggi, abbiate un po' di pazienza, messaggi come sempre vanno scritti al 349-238-6666 oppure sulla pagina di Focus Economia su Facebook. Manteniamo l'ordine delle notizie in breve, partendo come sempre dall'economia internazionale. La Banca Mondiale ha alzato le stime sulla crescita globale nel 2014, più 3,2%, l'area euro farà più 1,1%. Ma potrebbero esserci degli effetti di congelamento, di raffreddamento della crescita dalla riduzione degli stimoli della Federal Reserve, della Banca Centrale Americana, che prima o poi, come ha già annunciato, dovrà iniziare a stampare meno moneta. Sono circa 80 miliardi di dollari al mese quello che stampa, i dollari stampati dalla Banca Centrale Americana, dalla Federal Reserve. In Russia invece la banca centrale russa fa sapere che la Russia è entrata in una situazione di stagflazione, che è una delle cose peggiori che vi possono essere, stagnazione economica con inflazione. Qualcuno se la ricorda la stagflazione italiana degli anni 70. E la Germania nel 2013, nonostante gli ottimi dati sull'export, ha avuto un PIL, io lo dico ai cugini tedeschi, che non è che abbia fatto sto gran botto. Evidentemente il freno a mano tirato in molte economie europee sui consumi, penso all'Italia, alla Spagna, ma non solo, ha fatto sentire i suoi effetti anche sulla Germania, che è cresciuta solo dello 0,4% l'anno scorso, dello 0,7% crebbe nel 2012, le attese erano un po' più alte, ma uno 0,4% vale per tutti, non è reale crescita, è sostanzialmente stagnazione, una leggerissima crescita, per cui anche la Germania deve stare attenta. Per quello che riguarda invece le vicende di casa nostra, già accennavo a Monte dei Paschi, all'intervista di Alessandro Profumo, che dice: se salta l'aumento di capitale è a rischio l'intero sistema. Mi aspettavo di più dal ministro Saccomanni, che il tesoro fosse più incisivo. Con me e con Viola, l'amministratore delegato, la politica è fuori dalla gestione del Monte dei Paschi e noi siamo rimasti perché altrimenti il traguardo della ricapitalizzazione sarebbe diventato impossibile, e perché crediamo nel progetto Monte dei Paschi di Siena. Ricordate lo scontro con la fondazione Monte dei Paschi di Siena, che ha chiesto più tempo, almeno 6 mesi in più per l'aumento di capitale. E poi ancora il fatto che, insomma, lo scontro, possiamo dirlo tranquillamente, è tra l'approccio molto manageriale di Profumo e Viola e invece le sensibilità, per carità anche legittime, della Fondazione Monte dei Paschi, che rappresenta, diciamo, un elemento anche di senesità. Dopodiché anche la Fondazione Monte dei Paschi, che ha un nuovo presidente, Antonella Mansi, lo sappiamo, però un po' di autocritica dovrebbe farlo ogni tanto, perché nella gestione precedente ha avuto delle responsabilità non da poco nella piega che poi ha preso la vicenda Monte dei Paschi di Siena. E quindi, insomma, sì, adesso la lista degli sprechi la leggerò proprio nel giorno in cui il ministro dell'istruzione Carozza, non è che piagnucoli come scrivono alcuni ascoltatori, ha detto che non ci sono più soldi per le emergenze scolastiche. Abbiamo casi per altri motivi di scuole che non vengono pulite in Veneto, manca l'accordo con le società di pulizia, cioè c'è una situazione obiettivamente difficile nei conti pubblici là dove servirebbero. E poi adesso preparatevi, vi do ancora un paio di notizie però. Il rapporto Nielsen, il 44% degli italiani ha meno entrate, le priorità restano i figli e la casa, 1 su 10 ha dovuto rivedere i suoi piani di investimento. E poi per quello che riguarda invece altre dichiarazioni, la CISL stima un'emorragia occupazionale sulla base dei dati INPS di oltre 200.000 lavoratori che rischierebbero ancora di perdere il posto di lavoro. Questo guardando i dati INPS sul 2013. Per quello che riguarda la riforma Fornero, il Tribunale di Milano ha fatto sapere che dopo la riforma Fornero le cause del lavoro, e dice il Tribunale di Milano, una parte di questo incremento è direttamente attribuibile agli effetti della riforma Fornero, sono aumentate del 12%. E sono aumentati infatti i ricorsi per i licenziamenti dopo la modifica dell'articolo 18. Protestano invece i carrozzieri. Ieri abbiamo parlato con il presidente degli assicuratori italiani, dell'ANIA, i carrozzieri, perché hanno manifestato di fronte a Montecitorio contro le norme sulle RC auto contenute nel decreto destinazione Italia. Le associazioni di categoria protestano contro la facoltà per le assicurazioni di scegliere la carrozzeria e la norma che prevede il divieto di cessione del credito al carrozziere. Norme che secondo le associazioni metterebbero a rischio 17.000 imprese e 60.000 posti di lavoro. Allora, per carità, massima attenzione nelle ricadute di una norma, però anche i carrozzieri e le associazioni che li rappresentano dovrebbero convenire sul fatto che se noi paghiamo, come ieri ha confermato la stessa ANIA, 240 euro in più di media rispetto a Francia, Germania, Gran Bretagna e Spagna nella polizza RC auto, è anche per il tipo di infortuni, soprattutto in alcune regioni d'Italia che sono sempre gravi, dolosi e con effetti di danno fisico, delle volte anche permanente, sopra la media, ma anche perché c'è un rapporto, mettiamola così, non proprio virtuoso delle volte, non parlo di tutti i carrozzieri, ci mancherebbe, tra il perito e i carrozzieri, e sappiamo come vanno a finire le cose lì. Allora è chiaro che tutto questo, se ha dei costi impropri, poi ricade su tutti i cittadini, perché ci spalmano alcune furbizie, vengono spalmate sulle polizze RC auto di tutti i cittadini, non solo di chi ha fatto il furbo, carrozziere incluso alcune volte. Allora, vedo che alcuni di voi vogliono che io risponda al professore economista Alberto Bagnai, che mi ha attaccato duramente via Twitter. Addirittura c'è qualcuno che ha chiesto l'intervento su Twitter dell'Ordine dei giornalisti contro di me. Perché? Perché ho criticato le posizioni di chi vuole uscire dall'euro. Il mondo è bello perché è vario. Non ho capito perché anche Bagnai citi il fatto che l'editore di questa radio è la Confindustria. Io non riesco veramente a capire perché gli industriali italiani, che soprattutto piccoli e medi stanno pagando tantissimo questa crisi, con i consumi interni in calo, obbligati ad andare ad esportare sempre di più, dovrebbero essere a favore di una cosa che danneggia, che alimenta questa crisi stessa. Cioè non mi spiego il meccanismo per cui, diciamo, un industriale dovrebbe, mica stiamo parlando della grande finanza internazionale su cui ci sono mille idee di complotti, ma stiamo parlando dei normali industriali, ma perché dovrebbero difendere l'euro per meccanismi alla Bilderberg Group? Così come non mi dovrebbe spiegare lo stesso Bagnai, che tra l'altro so che ha litigato con l'altro vate del partito anti-euro, Barnard, prima ancora di distruggere l'euro avete già litigato, un attimo di pazienza, ma dico, dovrebbe spiegarmi lo stesso Bagnai perché è contro l'uscita dell'euro e anche il segretario della CGIL Susanna Camusso. Allora cosa c'è, un patto occulto tra la CGIL, la Confindustria e gli stessi lavoratori, e con i dati sulla disoccupazione che abbiamo stanno pagando duramente questa gestione dell'Europa, non l'euro, non il termometro, ma la febbre causata dalla gestione tedesca dell'Europa? Perché anche la Camusso oggi dichiara che chi vuole uscire dall'euro non racconta le conseguenze terribili che questa scelta porterebbe e quanti drammi ci sarebbero per il nostro paese, tornando alla logica della svalutazione competitiva che abbassa i costi senza aumentare la qualità? Perché il segretario della CGIL la pensa come il piccolo e medio industriale e la Confindustria? Perché c'è un complotto dietro, tutti diciamo al servizio delle banche d'affari americane, non lo so. Poi vorrei capire, visto che il problema di questo paese, poi la chiudo sull'euro, riguarda anche e soprattutto la produttività italiana, che dal 99-2000 in poi cala sensibilmente dai più bassi di altri paesi. L'euro risolverebbe il problema della nostra produttività? Uscire dall'euro, cioè tornare alla lira? Con un po' di svalutazione competitiva, pagando in più tutto il resto, e torniamo al discorso dei mutui, dei debiti contratti in euro dai grandi gruppi che dovrebbero continuare a pagare i debiti in euro e fare gli utili in lire. E fatemi capire una cosa, è tutto il problema dei costi della pubblica amministrazione lo risolverebbe il ritorno alla lira, vero? Cioè, tutto quello che stiamo per raccontare è colpa dell'euro, non colpa nostra che le riforme non le abbiamo fatte e la politica è sempre più autoreferenziale, ci sono blocchi di potere su tutto, ogni volta che si fa una riforma qualcuno si alza e dice no, tocchi i miei interessi, questo è colpa dell'euro, vero? Va bene. Allora, visto che stiamo per andare sul tema degli scandali, degli sprechi, e parleremo di Liguria e di Sicilia ampiamente, una cosa fatemela dire agli amici leghisti che nei giorni scorsi hanno manifestato contro l'aumento dei pedaggi autostradali, bloccando alcune corsie del casello di Gallarate, strappando il biglietto del pedaggio. Matteo Salvini, il segretario, ha detto: questa è un'Italia razzista contro il nord, perché fa pagare molto i pedaggi autostradali quando al sud, diciamo da Salerno in giù, non si pagano. Immagino sia questo il ragionamento. Sarà anche un'Italia razzista contro il nord, ma fatemi capire, il presidente dell'autostrada Brescia-Verona-Padova, che ha aumentato la Serenissima, che ha aumentato i pedaggi dell'1,4% il 1 gennaio, è un leghista e si chiama Flavio Tosi, è anche sindaco di Verona. Alla presidenza della 4 Torino-Milano, che ha aumentato il pedaggio del 1 gennaio del 5,7%, c'è un altro leghista, Attilio Schneck. Autovie Venete hanno fatto un rincaro del 7% e sono presiedute dal leghista Matteo Piasente. Alla vicepresidenza c'è il leghista Ivano Faoro. Il passante di Mestre, che ha aumentato il pedaggio del 6%, è guidato da un altro leghista che si chiama Tiziano Bembo. Allora, va bene tutto, io sono d'accordo, abbiamo anche criticato gli aumenti dei pedaggi autostradali rispetto all'inflazione, sono cresciuti più del doppio rispetto all'inflazione in questi 12 anni. Ma attenzione, contro chi protestate se la maggior parte delle autostrade del nord sono guidate dai leghisti? Cioè, inutile strappare biglietti a Gallarate, parlatevi e risolvetevela, autocriticatevi e cambiate le cose. Sono tutte a guida leghista queste tratte autostradali che ho criticato. No, questo lo dico perché il paese è molto lungo, ma in realtà è anche molto molto molto corto, e adesso avrei bisogno di un bel tango della Maiella. Allora, prima di arrivare alla Liguria e alla Sicilia, io ringrazio Mattia Feltri perché ha riassunto oggi in un pezzo bellissimo i 40 acquisti più incredibili pagati con i soldi pubblici. Sono tutti acquisti che non abbiamo raccontato in questi 2 anni, però la lista è bellissima. Allora, primo posto, le mutande boxer color kiwi Padania della regione Piemonte, Roberto Cotta, Lega, 40 euro, vabbò. Al secondo posto però, 30 pecore e un vitello, tutti acquisti pagati con i soldi nostri perché rientravano, diciamo, negli acquisti dei consiglieri regionali, dei rimborsi regionali. 30 pecore e un vitello maschio, quindi fortunato vitello, regione Sardegna, Salvatore Ladu del PD, 10.500 euro. E poi il libro al terzo posto, Mignottocrazia, comprato da Nicole Minetti, chiaramente, insomma, c'era un elemento così anche di interesse scientifico, 16 euro. E poi campanacci per bovini, bardature per cavalli, finimenti per carrozze. Ma che... E questo è il consigliere della Lega, Renzo Bossi, della regione Lombardia. Scusatemi, questo è il consigliere della Lega, Gianfranco Novero, della regione Piemonte. Importo imprecisato, tutte cose messe a nota spese, Campanacci per bovini, bardature per cavalli, finimenti per carrozze. Ma chi sei, Zorro? Vabbè. Al quinto posto, qui sì, Renzo Bossi, 22.000 euro spesi in chewing gum, caramelle, acqua, caffè, salatini, Red Bull, sigarette, birra. Al sesto posto, 15 euro spesi dall'assessore della Regione Lombardia, dal consigliere della Regione Lombardia, Alessandro Marelli, della Lega, per comprare aerei di carta. Che io capisco che sono pochi soldi, ma perché dobbiamo rimborsare noi su aerei di carta? Si fanno, poi cosa fai, li tiri in ufficio? Poi, attenzione, un gruppo imprecisato della regione Campania che ha speso 1.900 euro per un corno quello scaramantico, d'avorio. Non si sa mai, no? La regione Campania, la superstizione regna sovrana. E poi ancora, salsicce di Norimberga, regione Lombardia, Pierluigi Toscani, della Lega, importo imprecisato. Vabbè, poi c'è il mitico Fiorito, Franco Fiorito, con il suo SUV della BMW X5, 90.000 euro perché nevicava a Roma. E poi però al decimo posto troviamo Marco Botta del PDL, si è comprato una Mazda da golf per un importo imprecisato. Ma c'è anche il mitico Roberto Boniperti, ex PDL Regione Piemonte, si è comprato una caldaia, un congelatore, un frigorifero, una lavatrice e un televisore. È il microonde, no? Tutto a spese nostre, perché sono soldi che vengono poi rimborsati. Vabbè, viene quasi da sorridere con Roberto Boniperti della Regione Piemonte, ex PDL, che ha speso 153 euro, se le fate rimborsare, per una confezione di gorgonzola piccante. E sa, questo gorgonzola piccante stimola molte fantasie in questo momento negli ascoltatori, ma andiamo avanti. Non ce la farò mai oggi. Il gruppo della Lega, la Regione Piemonte, mette a nota spese 700 euro per la fornitura di catering di gelato per la festa patronale del comune di Novello. Ma adesso questo. Io capisco che il PD debba essere più sobrio, ma il consigliere della Regione Emilia, Thomas Casadei, mi scusi, ha messo in nota spese 50 centesimi per l'accesso al bagno pubblico, cioè è andato in bagno e se l'è fatto rimborsare. No, inizieremo anche a ragionare sul tipo di fruizione a questo punto. Vabbè, la Regione Calabria mette un gruppo imprecisato mette a rimborso il cambio del tergicristalli. E poi Renzo Bossi ritorna in questa classifica perché ha messo a rimborso 4 focacce, 24 Aperol, 5 San Bitter, 2 acque per un totale di 210 euro. 24 Aperol, tutti per lui. Allora, Gennaro Salvatore del PSI, della Regione Campania, ha messo a rimborso la bombola a gas. Io spero non fosse per intenti, diciamo, prego, non si butti giù con la bombola a gas. Ancora, c'è chi in Regione Friuli, gruppo PD, mette a rimborso l'adozione a distanza, opera meritoria, però perché dobbiamo pagare noi? Se fai un'opera di meritoria, di beneficenza come l'adozione a distanza, pagatela tu. Allora, addirittura... Allora, il gruppo per Caldoro, alla Regione Campania, ha messo a rimborso 3 euro per la tintura per capelli da uomo. A parte il fatto dei 3 euro, ma che cosa hai comprato con 3 euro? Ma chi te l'ha fatta la tintura a 3 euro? Ma Renzo Bossi, di nuovo, torna in auge per aver messo a rimborso anche 2 spazzolini da denti con nome inciso. Perché conoscevo le camicie con le iniziali, ma lo spazzolino da denti ancora no. Andiamo avanti, è quasi finito, eh? Biglietto per spettacolo di lap dance, questo è il massimo, perché il consigliere della regione Calabria mette anche il biglietto per lo spettacolo di lap dance, sempre come parte dell'attività politica, stava reclutando nuovi lettori. Renzo Bossi ha messo a rimborso anche il localizzatore per autovelox. Elena Maccanti della Lega, Regione Piemonte, mette a rimborso 1.212 euro per un televisore Philips LCD, la macchina fotografica Olimpia, la cornice digitale. Tutti tecnologici, stiamo. Adesso io dico il gruppo Italia dei Valori: 4 euro di rimborso per lo shampoo da Bunny Sun. Ma che 4 euro di shampoo? Ma che. Bah. Poi, però, la Regione Liguria, sempre il gruppo Italia dei Valori, mette a rimborso 16 euro per il pareo della Golden Lady. Immagino che questa parte dell'attività politica. Va bene, poi il Gianfranco Novero della Lega, Regione Piemonte, 500 euro di rimborso per la gastronomia per il battesimo della nipote, e giustamente dobbiamo pagarlo noi. Ma vogliamo, c'è un po' di tenerezza, ce la fa anche Rosa Mastro Simone, ex Italia dei Valori della Regione Basilicata, ha messo 6 euro di rimborso per il mini orsetto. Ma il mini orsetto, ma che te ne fai del mini orsetto? Mastro Simone, sei sola, sei triste, cos'è? Mini orsetto. Dobbiamo pagare noi il mini orsetto. Allora, il gruppo della Regione Molise mette a rimborso 650 euro per la serata al disco bar La Strada, che è dove molti vorrebbero mandare, diciamo, parte, diciamo, dei consiglieri regionali. La Regione Campania mette a rimborso anche 10 euro per la Barbie. La Barbie, nota attività, diciamo, politica. La Regione Liguria, Gruppo Italia dei Valori, mette 24 euro di rimborso per gli slip da Golden Lady. È tutti molto sexy questi assessori. Nicole Minetti, giustamente sexy, ha messo a rimborso subito l'aperitivo all'Hotel Principe di Savoia di Milano, Regione Lombardia, 840 euro d'aperitivo, per non sbagliarsi. Ho veramente quasi concluso. Gennaro Chierchia, mamma mia, Gennaro Chierchia, ha messo a rimborso 80 centesimi di snack al supermercato MD, la Regione Molise, fa tenerezza, sembra l'orsetto. Invece Luca Pedrale del PDL mette a rimborso calze e mutande da intimissimo. Chiudiamo veramente con la tolettatura del cane che Alessandro Colautti del PDL ha messo a rimborso alla Regione Friuli. E poi Massimo Giordano della Lega, Regione Piemonte, mette a rimborso 10 multe dei vigili urbani di Novara che si è preso lui, dobbiamo pagarle noi giustamente, 700 euro. E ancora... Il segreto delle donne, Viaggio nel cuore del piacere, un libro imperdibile secondo Raffaele Bucciarelli del PDC PRC, quindi la Fondazione Comunità della Regione Marche, 17 euro. Oggettistica allo Juve Store di Torino, Regione Piemonte, Paolo Tiramani della Lega, 113 euro. Il barattolo della Nutella messo a rimborso dall'avevamo anche raccontato da Carlo Sprefico del PD, 2,70 euro, ma questa Nutella lei capisce, e poi si presta a giochi. E infine la tassa sui rifiuti della Regione Campania, giustamente il gruppo misto se l'è fatta pagare dai contribuenti. E questo è solo l'inizio, meteo e pubblicità, poi adesso dopo il meteo e la pubblicità vi racconto invece le inchieste di Liguria e Sicilia. minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, vedo che c'è chi scrive, invece di fare battute, lei faccia il giornalista serio, non il servo dei soliti poteri forti. È un programma, sempre lui, è un programma di economia, è un programma la Travaglio. È un programma di economia e purtroppo, caro ascoltatore, in un programma di economia dobbiamo occuparci di sprechi di denaro pubblico nel momento in cui poi il Ministero dell'istruzione non ha i soldi per le emergenze. Ecco perché in un programma di economia in questo paese, con questa gestione dei soldi pubblici, dobbiamo occuparci di sprechi. Si figuri che voglio io. Allora, vediamo la cronaca invece. Perché la Regione Liguria, ci sono vari capitoli di spesa nell'ambito dell'indagine sui rimborsi dei vari gruppi consiglieri liguri che hanno portato all'arresto di Niccolò Scialfa, ex presidente della giunta ed ex capogruppo dell'Italia dei Valori, accusato di peculato e falso. L'accusa è utilizzo disinvolto ed abnorme di pecunia pubblica. Allora, ha fatto pagare sia la penna da Montblanc da 310 euro che ha regalato alla collega Marilyn Fusco. Ha cercato di farsi pagare anche gli assorbenti, qualcuno, ma cos'è sta storia degli assorbenti? Slip, gratta e vinci, vini della Borgogna, cibo per gatti, collan di cashmere, fiori, biglietti da visita per 650 euro, libri di Leopardi e Grisham. Marushka Piredda, la passionaria l'Italia catapultata dalla Lombardia in Liguria per espresso volere di Antonio Di Pietro, ha cercato di fare nel rimborso spese anche gli assorbenti. Io non so, ma era abituata dall'Italia forse, e poi capiamo perché c'è questo problema. E va bene, pensate che c'è anche Stefano Quaini che dopo l'uscita dell'Italia dei Valori ha inserito anche 54,50 euro di strumenti chirurgici, ma anche 133 euro di modellismo e giochi acquistati ad Albenga. Ha detto: ma è un regalo ai figli di simpatizzanti dell'Italia dei Valori. Ma che cavolo facciamo, i regali ai figli di simpatizzanti con i soldi nostri? Migliaia, sono 70.000 euro di rendiconti non giustificati. Caro ascoltatore, è economia questa o no? Chiedo. E andiamo alla regione Sicilia, dove ringrazio intanto per averci raggiunto in collegamento l'ex PM di Palermo, nonché leader di Azione Civile, ma non parleremo né di politica né di inchieste, Antonio Ingroia. Buonasera, avvocato. Buonasera. Lei è commissario liquidatore di Sicilia e Servizi e vorrei capire appunto se poi si riesce a tagliare. Quello che abbiamo capito invece dalla bomba giudiziaria che ieri in serata ha scosso nuovamente l'Assemblea Regionale Siciliana è che la Procura di Palermo ha notificato 13 avvisi di garanzia per peculato ai capigruppo della scorsa legislatura. Sono complessivamente indagate 97 persone, tra cui 83 tra deputati ed ex deputati. Poco chiare le spese di acquisti di borse e cravate di lusso, viaggi e cene galanti, automobili di valore, 13 milioni di euro l'anno i finanziamenti ai partiti, metà dei quali secondo i magistrati sono stati spesi illecitamente, fanno 7 milioni di euro quasi. E poi il deputato nazionale del PD Davide Faraone, che ha detto non mi dimetto, e certo ci mancherebbe, la procura gli contesta 3.400 euro di spese. Siccome è il responsabile del welfare del neo segretario Matteo Renzi, forse per opportunità converrebbe che facesse un passo indietro finché l'inchiesta non si è chiusa. E poi Giovanni Ardizzone, attuale presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana, contesta di 2.000 euro per rimborso forfettario per i portaborse. Poi Raffaele Lombardo, che ne ha, Michele Cimino, Pippo Gianni, Francesco Cascio, anche il segretario del PD siciliano Giuseppe Lupo e il capogruppo dei democratici Baldo Gucciardi. Ancora Livio Marocco, ex capogruppo di Futura Libertà, gli vengono contestati 14.000 euro tra regali, pranzi, acquisti di pasta fresca, profumi, occhiali, spese per lavanderia e soprattutto 180 euro per la collezione di fumetti Diabolik. Vai. E complimenti, perché sempre Marocco ha messo a rimborso anche la revisione del motorino. Allora, poi c'è l'ex capogruppo dell'UDC Giulia Adamo, che ha inserito 440 euro spese da Louis Vuitton, 1.320 euro da Hermès, oh, elegante Adamo, 1.700 euro per il regalo di nozze al figlio di Nino Strano, che Nino Strano è quello che mangiò la mortadella nell'aula della Camera quando cade il governo Prodi, giusto per capire, no? E poi Innocenzo Leontini, capogruppo del PDL, ha messo rimborso 70.000 euro per pagare le tasse. Cioè, questo ha messo rimborso 70.000 euro di un bollettino della Serit, che è la società, come lei sa, Ingroia, che riscuote le tasse in Sicilia, è l'Equitalia siciliana, ma uno mette a rimborso anche le tasse. Ah, da pazzi! E poi le spese sostenute al bar del Palazzo dei Normanni, il PD, fatture per 73.000 euro in un anno, Movimento per l'Autonomia 42.000 euro, UDC 17.000 euro e il mitico gruppo del PD scarica sui contribuenti, visto che parliamo anche del PD, 50.000 euro spesi in panettoni in Sicilia, spero che almeno fossero di Modica o locali. Allora Ingroia, fermo restando che Crocetta, presidente attuale della Regione Siciliana, ha fatto notare che ha speso in un anno 51.000 euro di rappresentanze e fondi contro i suoi predecessori, quindi Lombardo e Cuffaro, che ne spendevano tra i 2 e i 4 milioni, mi dice che cosa ha trovato dentro la società Sicilia e Servizi, perché costituita nel 2010, è partecipata al 51% dalla Regione Siciliana, è in liquidazione, ma non si capisce se sia vuota o no. Che cosa ha trovato dentro i servizi e che impressione si è fatto delle partecipate dal comune o dalla regione? Cosa ho trovato? Ho trovato, diciamo, un bel progetto per un servizio sicuramente essenziale, cioè l'informatizzazione della regione siciliana, e un progetto che doveva servire, che doveva servire per tagliare i costi, di che no. Perché l'informatizzazione serve per cercare di snellire la burocrazia e semplificare sia nel rapporto cittadino-burocrazia, e invece i soldi sono stati spesi, ci sono servizi che sono stati predisposti e mai utilizzati dalla regione, collaudi e verifiche che andavano fatte sui servizi che erano stati prestati, diciamo, approntati al socio privato con l'audi che la regione non ha mai fatto in questi 7 anni, tutti i dati informatici della regione siciliana, che invece di essere custoditi in Sicilia sono custoditi niente di meno che in Val d'Aosta, in un server. Cioè, mi faccia capire, i dati del server che servono alla regione di Sicilia sono tenuti in un server in Val d'Aosta? Sono tenuti in un server della Val d'Aosta, ma c'è di più. E questo significava due cose. Primo, che per gestire i sistemi informatici quotidianamente, direi ogni secondo, questi dati fanno su e giù tra la Sicilia, la Val d'Aosta e poi di nuovo in Sicilia. Ma che è un patto tra regioni autonome? Che i dati del server... No, non c'è nessun patto tra regioni. Qui semplicemente che è stato dato in appalto il servizio a un socio privato che ha deciso, avendo i propri server in Val d'Aosta, di tenere i dati di proprietà nella regione siciliana in Val d'Aosta. Ma c'è di più, che ho trovato il primo giorno in cui mi sono insediato, ho fatto un controllo, un'ispezione di tutti i locali e ho trovato negli scantinati della società di Sicilia Servizi il server della regione siciliana, dove potevano essere da un pezzo travasati i dati che sono in Val d'Aosta, e invece il server della Sicilia Servizi, per cui la regione ha pagato profumatamente, è ancora impacchettati dentro. Allora un attimo, sono in groia perché ho il traffico, però se ho ben capito, quell'ente, la società che dovrebbe informatizzare, diciamo, la pubblica amministrazione siciliana, usa come server un server che sta in Val d'Aosta, per cui i dati fanno su e giù per la penisola e va boh. Ma lei ha trovato negli scantinati, quando è arrivato, il server già acquistato che poteva essere usato lì, ho capito bene? Esatto, e ora, come io sono soltanto da qualche settimana ho preso possesso, ancora non ho fatto neanche tutte le verifiche, perché ora dovrò nominare dei tecnici informatici che verifichino se questo server, che è stato comprato più di un anno fa, non per caso non sia un server nel frattempo desueto dal punto di vista tecnologico e non più pronto per essere utilizzato per il trasferimento dei dati, perché questo si tratta anche. Allora, ho il traffico, poi abbia pazienza chi mi continua a chiedere la borsa. La facciamo la borsa, avremo una lunga paginata di borsa, chiuso con un più nel 60%, però oltre che la borsa c'è anche la vita, e questa è la vita che ci regalano alcuni dei consigli regionali di questo paese. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Vorrei sapere però in groia dopo, in realtà ci sono due errori che si rischia di correre, a mio avviso. Chiudere società che non funzionavano per cattiva gestione ma sono utili, e questo lo dico per non fare del populismo d'accatto, perché un conto è che la società lavori male e un conto è che sia non utile, magari le due cose non sono esattamente sovrapponibili, e l'altra cosa è capire a chi giova tutto questo giro. Cioè, io voglio capire se lei anche nella sua attività di PM dietro vede l'ombra di potere da, non dico culti, ma lobby d'affari, che ci sia la mafia o non la mafia dentro, ma insomma perché questo andazzo incontrollato. Dopo il traffico. Allora, Antonio Ingroia, vanno chiusi e basta, leggermente volume, se mi alzate il volume che è un po' basso, vanno chiusi e basta o in realtà sono stati mai utilizzati, e a chi giova questo andazzo al di là dei consumi, diciamo, personali di assorbenti, profumi e altre amenità? Prego. Allora noi dobbiamo distinguere, cioè noi abbiamo in Sicilia una trentina di società partecipate e molte di queste società sono dei doppioni l'una dell'altra, la competenza dell'una si sovrappone con l'altra, sono più che altro stati dei vere e proprie carrozzoni politico-clientelari, come il presidente della regione di turno ha cercato delle poltrone per i suoi clienti, magari i politici che non sono stati premiati con un assessorato e vengono premiati in questo modo facendo gli amministratori di società dell'altra. Si fanno le assunzioni spesso col meccanismo delle società miste, si fanno delle assunzioni di tipo clientelare appoggiando sul socio privato, e per la verità in parte Sicilia Servizi è stato anche questo, però quelle società, quel tipo di modello di società partecipate sono spesso società partecipate inutili e queste vanno soppresse. Per la verità il presidente Crocetta si sta impegnando in questa cosa non senza ostacoli dentro la stessa assemblea regionale, dentro la stessa sua maggioranza, per sfondare, diciamo, molto di queste società partecipate. Poi ce ne sono alcune, e io ritengo che Sicilia Servizi è fra queste, che svolgono e devono svolgere un servizio utile, anzi direi essenziale. È inutile dire che noi in Sicilia abbiamo ancora, ma non, forse non soltanto in Sicilia, i famosi cosiddetti camminatori, che sono quelli... i mitici posti... camminatori, quelli che devono portare i fascicoli. Esatto, mi dica una cosa, Ingroia, però, perché ho pochi minuti. Dietro questo atteggiamento, lasciamo stare adesso, senza generalizzare, però... C'è un interesse anche della criminalità organizzata oppure, secondo lei, stiamo parlando di comportamenti illeciti ma individuali? Cioè uno quando legge della Nutella, dell'assorbente, delle spese per il nipote, per il battesimo del nipote o addirittura quello che si fa pagare le tasse, che ne mette a rimborso, un genio assoluto, un premio Nobel dell'economia tutta la vita questo. Ma dico, c'è un comportamento illecito individuale o questo poi favorisce anche comportamenti illeciti di carattere organizzato? Guardi, ovviamente la criminalità organizzata è una delle tante, ormai è diventata una delle tante lobby finanziarie che si arricchiscono e si avvalgono della corruzione politica amministrativa e del meccanismo dei politici clientelari, con l'aggravante ovviamente che si tratta di una lobby armata che quindi può usare anche l'intimidazione sia nei confronti dei concorrenti, venditori concorrenti e così via. Ma il livello di corruzione è così generalizzato che il fatto che ci siano anche le mafie dentro, non dico che sia secondario, ci sono sempre occupate di mafie, non so sottovalutare la mafia, ma andiamo ben al di là della mafia. La mafia è finita per integrare i sistemi di corruzione. Quindi lei dice la mafia è a questo punto una delle tante lobby che utilizza questo sistema di corruzione. E sì, lobby che premono e utilizza questo sistema di corruzione. Allora, chi dice che è normale che il server possa essere da un'altra parte? Siamo d'accordo, so che non è un'autostrada, però è strano che nello scantinato ci sia un server della Regione Sicilia imballato lì da un anno mai utilizzato. Ammetterete che è strano, perché l'hai comprato? Allora paga solo quello della Valdosta. Quando è che lei deciderà che cosa fare di Sicilia e servizi? Allora, innanzitutto soltanto stanotte la notte scorsa alle 3:30 è stata approvata in Sicilia la finanziaria, sì, dalla quale dipende la possibilità di bloccare il personale. In questo momento, tra l'altro, tra le tante anomalie di questa vicenda, Sicilia Servizi è sostanzialmente una scatola vuota, perché il personale specializzato, gli ingegneri informatici, chi gestisce il sistema, è tutto personale in carico invece alla società privata, ai soci privati che hanno prestato il servizio alla Regione Siciliana. Allora noi dobbiamo fare un trasferimento di competenze di questo personale. Questa cosa è stata fino ad oggi perché c'è un divieto di assunzione da parte della partecipata. Oggi ieri stanotte è passata la finanziaria che sblocca la possibilità di fare questo travaso di personale e quindi settimana prossima, credo che oggi si dovrà riunire oggi la giunta regionale con una delibera che mi autorizzasse come commissario legislatore all'assunzione di questo personale specializzato. Cerchiamo di mettere a regime la prossima settimana il servizio, verificheremo cosa non ha funzionato e se sono certo che ci sono stati. Allora, in una settimana, mi dica una cosa, lei è pagato per questo, Ingroia? Una cosa, l'idea, il progetto mio è cercare di trasformare questa società mista in una società regionale, sì, perché sono convinto che noi possiamo dimezzare anche di più i costi che sono stati affrontati fino ad oggi. Io glielo auguro, lei è pagato per questo, Ingroia? Come? È pagato? Cioè, il progetto lo fa... Ovviamente sono diciamo commissario liquidatore e quindi ricevo uno stipendio del commissario liquidatore. No, mi interessava questo, ci mancherebbe uno stipendio però non è che no, ma ben venga, se uno è pagato per tagliare e ridurre i costi noi siamo contenti, così come siamo contenti che Cottarelli venga pagato. Grazie e in bocca al lupo anche per Sicilia e Servizi a Antonio Ingroia. Adesso c'è il GR, poi facciamo la borsa, il Monte dei Paschi e l'accordo con la Svizzera. Chi mi chiede se non sono troppo vecchio per mettere queste basi musicali? No, così come lei non è troppo vecchio per ballarle, il GR. Alle 18 e 6 minuti riprende Focus Economia con voi come sempre Sebastiano Barisoni. Adesso i temi di borsa, borsa che tocca in mano, non posso più parlare di sprechi. Basta, dico semplicemente che il Nobel all'economia, no, vedo molti sms, però adesso ci sono anche altri temi, però obiettivamente il Nobel all'economia va a Innocenzo Leontini, capogruppo del PDL Regione Sicilia, che ha messo a rimborso le sue tasse. A rimborso le sue tasse, cioè noi dobbiamo pagare pure le tasse a lui, capito? 67.000 euro, Allora, la borsa, dicevo, tornata ai massimi da prima della crisi dello spread, quindi da luglio del 2011, oggi più 1,60% per quello che riguarda Milano, 20.045 punti la chiusura, più 1,35 Parigi, più 2% Francoforte, più 0,80% Londra. E poi l'America che guadagna lo 0,77%, fortissimi molti titoli industriali a partire da Finmeccanica, più 8,20%. E allora, Eleonora Micheli, buonasera. Buonasera a tutti. Radio Corriere sulle 24 ore. Finmeccanica più 8,22%, e poi andiamo sugli altri titoli. Esatto, Finmeccanica si è messa in evidenza, del resto il numero uno della francese Airbus ha detto che nel settore aerospaziale si configura un consolidamento, quindi si mettono in previsione delle operazioni straordinarie. In più, sempre il CEO di Airbus ha detto di essere disponibile a rilevare le quote di minoranza di una società controllata nella quale proprio Finmeccanica detiene il 25%. Società che secondo gli analisti potrebbe essere valutata oltre 1 miliardo di euro. In più, proprio oggi Repubblica ha scritto che è tornata d'attualità l'ipotesi che Finmeccanica possa quotare Ansaldo Energia. Insomma, tutte notizie a favore del titolo, che così si è riscattato con questo progresso superiore all'8%. Bene anche le banche, nonostante le nuove regole decise dall'Europa, mi sembra che le banche vadano tutte bene, tranne una in realtà, anzi no, Unipulsai, che non è una banca, meno 0,40, tutte bene, dicevo, Pop Milano più 5,12, Banco Popolare più 4,20, Intesa San Paolo più 3,30, Ubibanca più 3%, Unicredit più 2,70%, Mediolanum più 1,80, Popolare Emilia Romagna più 1,50%. Sì, esatto, oggi diciamo le banche... Scusami, il Monte dei Paschi, di cui parleremo dopo, più 0,40, prego. Allora. Oggi sono state sospinte dall'indiscrezione che la Banca Centrale Europea, nei cosiddetti stress test, per dirla in parole povere, metta diciamo dei criteri di valutazione meno severi rispetto a quanto si temeva, e quindi questo ha favorito ovviamente tutti i titoli bancari, che favoriti peraltro anche dallo stress, dallo spread che rimane in area 200 punti, continuano a correre. MPS, come hai detto tu, ha fatto più 0,4%, meno rispetto quindi alle altre banche, nonostante peraltro ieri siano stati confermati i vertici. Sì, d'altra parte c'è questo aumento di capitale che sarà fatto a primavera, però deve essere fatto, che ovviamente pesa sull'andamento delle azioni. E tra poco ne parliamo. Telecom Italia più 4,30%. Telecom Italia si è messa in evidenza alla vigilia di un consiglio di amministrazione importante, se non altro perché è il primo del 2014, ma soprattutto il primo della tumultuosa assemblea dello scorso dicembre. Domani saranno analizzati probabilmente anche dei dossier importanti. Oggi un giornale, La Stampa, è tornata a rilanciare l'ipotesi che potrebbe tornare di attualità lo scorporo della rete, poi magari si parlerà sempre della famosa cessione di TIM Brasile, anche se Patuano più volte ha detto che la compagnia è assolutamente strategica. Comunque poi i titoli, secondo gli analisti, hanno rialzato la testa, anche perché nei giorni scorsi la controllata TIM in verità ha rivisto il piano tariffario con prezzi un po' più elevati, e quindi questo o metterà in fuggi clienti, oppure magari avranno ragione e sarà un successo per i conti dell'azienda. Su Pirelli ci sono novità molto forte oggi, più 5,80? No, novità particolari non ci sono, ovviamente si attendono, anche si scommette su un eventuale riassetto azionario, chissà, è tutto da vedere. Bene, appunto anche il lusso, comunque World Duty Free più 3,80%, Autogrill abbiamo detto più 4,20%, il gruppo Fiat più 2,60% la controllante Exor, Fiat più 2% e CNH più 2%. anch'essa. Vorrei chiudere con Mediaset, che dopo aver toccato ieri 4 euro per azione, oggi ritraccia meno 3,13%, e Unipol SAI. Sì, sono i due titoli in controtendenza, oltre meno 3% Mediaset, ma si tratta di prese di beneficio. I titoli avevano volato, come hai detto tu, ieri si erano spenti al top dal maggio 2011. Per quanto riguarda Unipol, invece, c'è l'attesa per il consiglio di amministrazione che si tiene oggi e che è chiamato proprio a decidere sulle cessioni. C'è un'offerta da parte di un gruppo belga per le cessioni che sono state imposte dall'antitrust, ma secondo le indiscrezioni del Sole 24 ore tale offerta dovrebbe essere rinviata al mittente. A questo punto la compagnia potrebbe rischiare anche una multa da parte dell'antitrust, visto che non sta nei tempi nel rispetto appunto delle cessioni. Comunque aspettiamo, è tutto da vedere, per adesso non sono uscite novità. Migliori e peggiori in assoluto, Zucchi di nuovo fortissima, più 22,80%. Eh sì, Zucchi è l'effetto Buffon. È l'effetto Buffon, certo. Venerdì sappiamo che detiene oltre il 50% del capitale, i titoli non si arrestano e da venerdì in pratica hanno guadagnato oltre il 50%. Sì, direi che Buffon è proprio un vincente. Eccola lì, vabbè, ti piace Buffon, è consentito, è un gol per un portiere, non è male, più 17% anche le Zucchi sul risparmio, le Zucchi risparmio non convertito. SNAI più 14%, Classe Editori più 11,5%, fronte opposto invece SafeBag meno 4%, Monriff meno 3,70% e poco altro di Mediaset abbiamo già detto. Grazie Eleonora Micheli, Radio Cori sulle 24 ore. Buonasera. Allora, la vexata questione della Svizzera, dell'accordo con la Svizzera. Oggi su Sole 24 Ore c'è un'anticipazione. Chiedo venia a Mattia Feltri, ho detto prima che era del Sole 24 Ore, in realtà lavora alla Stampa, ma chiudo su questo. C'è, dicevo, su Sole 24 Ore un'anticipazione che annuncerebbe un accordo imminente tra Italia e Svizzera per tassare i capitali degli italiani depositati nelle banche svizzere, che ammonterebbero a circa 180 miliardi di euro. Allora, si chiama voluntary disclosure, una sorta di autodenuncia che prevede il pagamento integrale delle tasse, quindi non è il condono mascherato dallo scudo fiscale di Tremonti, quel 5% obiettivamente noi criticiamo fin dall'inizio, inaccettabile in altri paesi, in Gran Bretagna e in Germania, quando fai un condono di quel tipo, uno scudo fiscale, paghi di più, giustamente, visto che li hai portati illegalmente all'estero. Questo è proprio una tassazione. Ci spiega tutto chi ha scoperto l'accordo imminente, ossia il collega del Sole 24 Ore, Alessandro Galimberti. Buonasera Alessandro. Sì, buonasera a voi. Che cosa prevederebbe questo accordo che potrebbe essere firmato fra 2 settimane a Berna, quando il Presidente del Consiglio Enrico Letta aprirà il forum di dialogo con la Confederazione Elvetica e quindi con Didier Burkhalter? Dici bene, sono 180 miliardi almeno secondo stime molto prudenti della Banca d'Italia e depositi italiani in Svizzera. Come farli rimpatriare? Allora, ci sono due binari fondamentalmente. Il primo è quello che dicevi della voluntary disclosure, cioè un'autodenuncia. Il contribuente si presenta con il suo fiscalista, con il suo avvocato all'Agenzia delle Entrate e dice: io ho questi soldi non fiscalmente dichiarati all'estero, voglio regolarizzarli. Per questo siamo in attesa di un decreto legge che è già studiato, è già pronto, già abbiamo anticipato sul Sole il mese scorso, e che prevede una serie di agevolazioni e facilitazioni per chi si autodenuncerà. Quando sarà finita questa finestra temporale per regolarizzarsi, entrerà in vigore quello che è l'oggetto dell'accordo di cui parlavi poco fa, un accordo con la Svizzera per lo scambio automatico di informazioni fiscali, assistenza amministrativa per scambiarsi in automatico e senza autorizzazioni della magistratura i dati sui contribuenti, cioè dal momento in cui questo trattato entrerà in vigore, l'Agenzia delle Entrate potrà conoscere le singole posizioni di contribuenti italiani all'estero. Potremmo dire: perché succede? Perché la Svizzera, siamo simpatici agli svizzeri? No, è un trend mondiale che è guidato in modo abbastanza feroce America, dagli Stati Uniti, cioè, dal 2009, che stanno tracciando la via a tutti gli stati per recuperare le tassazioni proprie, e che tutti l'OCSE si è allineata a queste posizioni, i paesi occidentali. La Germania aveva già fatto un accordo, se non ricordo male. La Germania ha fatto un accordo con la Svizzera che era stato bocciato l'anno scorso, ma stiamo parlando di altre cose, dell'accordo Rubik. L'accordo Rubik consentiva questo, alla Svizzera di non dichiarare dare al paese, quali, a quanto mettavano, non solo i nomi, ma anche l'ammontare. Era un calcolo che la Svizzera fa per conto di un paese ed esige le tasse per conto del paese. Era un accordo blind da un certo punto di vista, perché per l'amministrazione italiana mai avrebbe saputo quanto ammontavano i depositi. Ora è cambiato completamente lo scenario internazionale. Dimmi una cosa però, Alessandro, il fatto che siano stimati circa 180 miliardi, allora questi intanto non rientrerebbero tra quelli già scudati, non è che uno che ha scudato deve fare la dichiarazione nuova? No, in realtà però deve svelare la propria posizione, lo scudo consentiva l'anonimato, comunque era una regolarizzazione. Quindi chi ha regolarizzato i capitali con lo scudo, da questo punto di vista non va a pagare nuove tasse, però l'altra cosa, non è che parlarne adesso significhi far scappare questi capitali in altre sedi, in altri paradisi fiscali? Cioè, è vero, ma attenzione che è una fuga a vicolo cieco, perché è proprio cambiato il contesto internazionale dopo che gli Stati Uniti hanno deciso di stanare i paradisi fiscali. Singapore già l'anno scorso, a luglio dell'anno scorso, ha smesso di essere un paradiso fiscale, perché tutti si stanno adeguando a queste regole, che sono poi le regole del FATCA americano, del Foreign Tax Account. Quindi può essere una fuga, voglio dire, a breve durata, a breve termine, perché gli automatismi degli accordi bilaterali internazionali, dello scambio automatico, diventeranno standard in tutto il mondo. Qual è l'arma di ricatto che usano gli Stati Uniti? Non aderisci a questo programma di trasparenza fiscale internazionale, sei fuori dal mercato dei capitali, non operi su Wall Street e sei un paese blacklist per quanto riguarda il commercio. Quindi sarà sempre più difficile far correre i capitali. L'aliquota, e concludiamo su questo, su cui si ragiona, qual è, Alessandro? Il problema è abbastanza complesso, perché nel momento in cui il contribuente si presenta e dice io ho 10 milioni in Svizzera, l'agenzia delle entrate ti contesta l'evasione fiscale, ti dice quindi 43%, ti applichiamo ovviamente l'aliquota massima sui 10 milioni, dopodiché dagli anni successivi verrà tassata come rendita finanziaria l'eventuale guadagno di capitale. Quindi quando uno va dal commercialista dice io ho 10 milioni in Svizzera, l'agenzia delle entrate è obbligata a fare il 43%, no, chiedo. E l'agenzia delle entrate ti contesta, certo, l'evasione fiscale, dici quelli stanno lì perché tu non hai pagato le tasse su quelle, se invece è il contrario non c'è neanche bisogno, se puoi dimostrare che ci sono delle operazioni fatte all'estero regolarmente, che quelli derivano da redditi fatti all'estero e tassati all'estero, evidentemente non però hai il problema di presentare. È vero, quindi il pagamento delle tasse sarebbe integrale, lo spiego anche chi ci chiede. Lumi al 349-238-6666 e poi anche su Facebook, sarebbe integrale, non c'è nessun condono tipo scudo fiscale, però è vero che vi sarebbe uno sconto sulle sanzioni e la neutralizzazione di quasi tutti i reati tranne l'evasione fiscale? Questi sono in prassi è già cominciata la voluntary disclosure e si stanno applicando le sanzioni sul patteggiamento fiscale, che sono una legge del 97, che è il 472-97, un decreto legislativo, che consente, dal momento in cui patteggi col fisco e cessi la conflittualità, ti consente di ottenere una serie di sconti fiscali. Nel decreto legge tutte queste cose vengono regolamentate, gli sconti arrivano addirittura a un sesto del minimo. E per quanto riguarda il versante penale di cui parlavi, non sarebbe più perseguito nel momento in cui ti presenti all'autorità fiscale dicendo io ho evaso. L'evasione fiscale o l'omessa dichiarazione non è più perseguita, viene ancora perseguita però tutti i fatti di frode fiscale, per esempio l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, triangolazioni estero su estero, quindi eccetera. La frode fiscale non viene neutralizzata, verrebbe punita anche per chi si autodenuncia in quel caso lì. Grazie, vedremo se poi fra due settimane a Berna Enrico Letta firmerà l'accordo appunto per far rientrare, cioè far tassare almeno 180 miliardi, questa è la stima, di euro di depositanti italiani ma non tassati dalla legislazione italiana. Adesso c'è il traffico, chiedo scusa per il ritardo, poi l'ultimo tema di questa puntata e mi riferisco al Monte dei Paschi di Siena, alle dichiarazioni di Alessandro Profumo, la risposta molto, molto piccata del presidente della Fondazione Cariplo Giuseppe Guzzetti, 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Alle 18:22 minuti riprende l'ultima parte di Focus Economia. Allora, dicevamo della vicenda Monte dei Paschi di Siena. Ieri il Consiglio di Amministrazione ha confermato la fiducia al Presidente Alessandro Profumo e all'amministratore delegato Fabrizio Viola, quindi rientrate le loro minacciate dimissioni. Resta però sullo sfondo lo scontro, il braccio di ferro con la Fondazione Monte dei Paschi di Siena, che detiene il 34%, sulla tempistica dell'aumento di capitale. L'aumento di capitale, la Fondazione deve trovare risorse per ripagare 340 milioni di debiti contratti con un pool di banche. L'aumento di capitale vale 3 miliardi di euro. La Fondazione ha chiesto più tempo. Rientrate quindi le dimissioni, però oggi in un'intervista Alessandro Profumo dice: se salta il Monte dei Paschi di Siena è a rischio l'intero sistema bancario italiano, mi aspettavo di più dal Tesoro, che fosse più incisivo il ministro Saccomanni. Con me e con Fabrizio Viola comunque la politica è rimasta fuori dalla banca, noi siamo restati a guidare la banca perché altrimenti il traguardo della ricapitalizzazione sarebbe diventato impossibile e perché crediamo nel progetto Monte dei Paschi. Oggi il presidente della Fondazione Cariplo, Giuseppe Guzzetti, dice: credo che sia un'affermazione avventata e destituita di ogni fondamento quella di Profumo sul rischio per l'intero sistema bancario italiano. Mi sembra un'affermazione pesante. E poi ha detto: non sono sul dossier Monte dei Paschi, quindi non mi occupo dell'eventuale acquisto della Fondazione Cariplo di una quota della Fondazione Monte dei Paschi di Siena. Cesare Peruzzi in collegamento con noi da Firenze, buonasera. Buonasera a voi. Allora, cos'è? Sono ancora ai ferri corti la Fondazione Monte dei Paschi e chi rappresenta le fondazioni bancarie come Guzzetti con i manager? Ma augurabilmente no, la polemica mi pare che però ancora sia presente, questo forse era anche inevitabile per le cose che tu hai ricordato. Nei fatti c'è da dire che ormai l'aumento di capitale è stato deciso dagli azionisti e quindi, come hanno confermato oggi i vertici del Monte, Viola e Profumo, si farà nei tempi e nei modi augurabilmente previsti, cioè da fine maggio in avanti. Il mercato oggi era ancora un po', diciamo, freddo sul Monte dei Paschi rispetto ad altri titoli. Ritiene che a questo punto debba avere maggiori chiarimenti? Ormai la vicenda, al di là delle schermaglie, interviste, repliche, la vicenda è completamente chiusa e uno, a chi piace va bene così, a chi non piace si rassegna che l'aumento di capitale verrà fatto a maggio? Io la vedo così e penso che sia come tu, la seconda parte del tuo ragionamento. Naturalmente resta da vedere come la Fondazione risolverà e se risolverà i propri problemi, che poi sono quelli di vendere la quota che ancora detiene in Monte Paschi per rimborsare i propri creditori e possibilmente poter investire ancora qualche parte del capitale residuo per avere un reddito, perché il problema poi dei problemi per la Fondazione Senese è che ormai da troppo tempo non riceve più dividendi dalla banca e quindi, avendo tutto investito dentro la banca, non ha più un reddito. E quindi deve reperire le risorse per questi 340 milioni, no, di debiti contratti? Almeno per non perché fallire. Poi giustamente dici tu, ha bisogno anche di avere un minimo di investimenti per operare con un pool di banche. Ma c'è qualche novità? Perché insomma, non ho ben capito se le dichiarazioni di Guzzetti di oggi fossero un definitivo no, uno sfilarsi della Fondazione Cariplo, ma c'è qualche novità sul fronte delle altre fondazioni che potrebbero venire in soccorso alla Fondazione Monte dei Paschi? No, nel senso che giorno dopo giorno sembra che il fronte delle fondazioni si sia sfaldato, si sia un po' dissolto, perché già altre, dalla Compagnia di San Paolo all'Ente Cassa Firenze, adesso anche Guzzetti per Cariplo, si sono tirati fuori. L'impressione, quello che capiamo occupandoci delle cose senesi, è che probabilmente la Fondazione guarda in altre direzioni. È presumibile che abbiano delle carte in mano e che cerchino di giocarle nei prossimi due, massimo tre mesi, perché poi voglio ricordare che ad aprile scade l'attuale mandato della Fondazione e ci sarà quindi anche un rinnovo degli organi di gestione dell'ente senese, e quindi l'attuale governo della Fondazione di Siena vuole chiudere la partita, se ne sarà capace, da qui ad aprile. Del resto a maggio, abbiamo detto, ci sarà augurabilmente per la Banca Monte dei Paschi l'aumento di capitale. Vabbè, a questo punto deve esserci, perché sennò sarebbe veramente una botta sul mercato. Grazie, grazie a Cesare Peruzzi, grazie in collegamento con noi da Firenze. Veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Non posso continuare a rispondere ai messaggi sulle sprechi. Noi saremo qua anche domani, ne racconteremo, spero di no, ma temo, anche degli altri, e vi racconteremo come sempre la cronaca della giornata economico-finanziaria. Intanto, per ora, da Sebastiano Barigioni l'auguro di una buona serata. Focus Economia torna domani alle 17. Radio 24, la passione si sente.